sabato 11 novembre 2017. Fiori di pesco, c'eri tu, fiori nuovi, stasera esco, un anno in più, stessa strada, stessa porta. Se son venuto qui questa sera, Da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancora bisogno di te. Fammi entrare per favore, solo credevo di volare, non volo. Credevo che l'azzurro di due occhi per me forse stasera non è, forse sempre cielo non è. Posso stringerti le mani come sopra i premi. Non sto sbagliando, mi ami, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che noi non siamo stati mai lontani. Ieri era oggi, oggi è già domani. Scusa, credevo proprio che fossi sola, credevo non ci fosse nessuno con te. Oh, scusa di tanto se vuoi, signore, chiedo scusa anche a lei, ma io ero proprio fuori di me. Io ero proprio fuori di me quando dicevo posso stringerti le mani, non soffre e tu tremi, no, non sto sbagliando, mi ami, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero. Che non siamo stati mai lontani. Ieri era oggi, oggi è già domani. Dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero. Sono informato, c'è un treno che parte alle 7:40. Hai molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta. Mi passano 10 minuti per giungere a casa nostra. La chiave ricordati sempre lì, sulla finestra. Per far le valigie ricordati di non scordare qualche cosa di tuo che te poi mi faccia pensare. E ora basta, non sarà più qui. Ti rendi conto che tu, che noi soffriamo di più, ogni istante che passa di più non a piangere. Presto, presto, presto, presto, presto, presto, vai. Da un minuto sei partita e sono solo. Sono strano e non capisco cosa c'è. Sui miei occhi da un minuto è sceso un velo. Forse solo suggestione, paura o chissà che. È possibile che fin d'ora c'ho bisogno di te, di te, di te. Sono informato, c'è un volo che parte alle 8:50. Non ho molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta. Mi passano 10 minuti per giungere a casa nostra. La chiave l'hai messa senz'altro lì, sulla finestra. E nel far le valigie stavolta non devo sfuggire. ancora sul lì, e poi gli incrocio un taxi. Son certo è così, quando arrivi col treno mi vedi non piangere, presto presto, so presto, presto presto vai. Lucio! Ho visto un uomo che moriva per amore, ne ho visto un'altra che più lacrime non ha, nessun coltello sai ti può ferir di più di un grande amore che ti spezza il cuore. Ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me io devo dimenticare, capelli biondi da accarezzare e labbra rosse sulle quali morire, 10 ragazze per me, solo per me, una la voglio perché mi so bene ballare. La voglio perché ancora non sa cos'è amore, una soltanto perché ha conosciuto tutti tranne me, 10 ragazze così che dico solo di sì, vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Posso averne una per il giorno e una per la sera, però quel matto mi conosce perché ha detto una cosa vera, vera. 10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me io devo dimenticare, capelli biondi da accarezzare e labbra rossa sulle quali morire, 10 ragazze per me, solo per me, che ha detto che non vivo più senza te, matto, quello è proprio matto perché forse non sa che possa averne una per il giorno. Per me, 10 ragazze per me, 10 ragazze per me, però io muoio per te, però io muoio per te, però io muoio per te. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto la primavera, questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Questo amore è fatto solo di poesia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, non sarà un'avventura, un'avventura, non è fuoco che col tempo può morire, ma vivrà quanto il mondo, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, ma è quel che sarà. Sempre vivrà, sempre vivrà, sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu. Sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico, il mio mestiere è vivere la vita che sia di tutti i giorni sconosciuta. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e qualche insegna. ora zitto mondo amore. Eccitazione è il sintomo d'amore al quale non sappiamo rinunciare, le conseguenze spesso fa soffrire, a turno ci dobbiamo consolare, tu amica cara mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli. Innamorato di chi troppo docile non fa per te, lo so divento antipatico, ma è sempre meglio che ipocrita, non paga come vuoi i miei consigli, ma mi arrendo, fa come vuoi. Al solito poi, ma che disastro, io mi maledico, ho scelto te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita che sia di tutti i giorni sconosciuta, ti odio forte, debole compagna, di poche volte impara e troppo insegna. C'è una gomma ancora che non si buca, il mastice sei tu mia vecchia amica, oh la pezza sono io, ma che vergogna, che importa, tocca a te, avanti sogna, ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e volte insegna. Sono innamorato di chi? L'incognito non dico no, perché sono tutte un po' squallide, la gelosia non è lecita, quello che voglio lo sai, non mi fermerà, menagramo che sei. Ho scelto te una donna per amico, che il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni sconosciuta, ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara, a volte insegna. C'è qualcosa che non scordo, sera, parlavi insieme a me, mi stringevi a me, Borbizzo, mi chiesto tu chi è, chi è, un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso. Il nostro amor dissolversi nel vento, ricordo sono morto in un momento. Dormimente bella come sei, forse ancora più. Mi torni in mente dolce come mai, come non sei tu. Già ti ho caduto in volo, questo tu da sei, in tutti i sogni miei. La la la, come ti vorrei, come ti vorrei. All'uscita di scuola i ragazzi vedevano i libri, io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli, poi sconfitto tornavo a giocare con la mente e i suoi tarli, e la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Dentro me, ma il

questa avventura sta diventando una storia vera. Spero tanto tu sia sincera. Contiene tante casse, alcune nere, alcune gialle, alcune rosse, dovendo scegliere e studiare le mie mosse, sono all'impasse. Sto accorgendo che sto entrando dentro casa, con la mia cassa ancora con il nastro rosa, e non vorrei aver sbagliato la mia spesa o la mia sposa. Chissà chi, sa chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera. Spero tanto tu sia sincera. Sensazioni, giovane emozioni. lascio un quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore. Vero amore riscorde. Sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai, se tu lo di te. ti ho fatto piangere tanto perché io sono brutto, lo so. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Ma che disperazione, nascendo una distensione, era un gioco. Nascerà distrazione, nascerà distrazione, che disperazione nascerà, distrazione nascerà, distrazione che disperazione nascerà, distrazione nascerà, distrazione che disperazione nascerà, un foro dell'acqua è più blu, niente di più. Per fermare fare cosa che è dentro me. Nella mente tua non c'è, dire tu non puoi. Chiamale se vuoi emozioni. Chiamale se vuoi emozioni. Si vede a un passo per ritrovar se stesso, parlare più del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore e riscoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. Sapendo che quel che brucia non sono le offese, e chiudere gli occhi per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Dire tu non puoi. Chiamale se vuoi emozioni. Chiamale se vuoi emozioni. Thank you. Se muoio sono contento, non si vive. te. Mi uccide canzone, cercala se vuoi. Dille che non mi perda mai. Va per le strade tra la gente. Dai tuoi occhi non li staccherei mai, e adesso anzi me ne mangio, tu non lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare sbatte su di me, che ho sempre fatto solo sbagli, ma uno sbaglio che cos'è? Non si vive. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Colpa di un solichi. Ciao! Una spiaggia di riccione, milioni di persone, le pancia sotto il sole, un gelato e un ombrellone, abbronza di coglione, non hai ancora capito che siamo stati sempre in guerra, anche 15 anni serva, in guerra con noi stessi, tra video e giornali, e noi sempre più lessi, a faccia bitolare, con la nostra differenza, la passione per le cose, non possiamo stare senza, anche se pericolose, come ne sente una canzone, mentre la stai cantando, che da qualcuno muore, qualcos'altro sta nascendo, il giorno e la vita, la dobbiamo preparare, che non ci sfuga nella vita, come la sabbia in riva al mare. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Potranno sposarsi, ma soltanto una certa età. questo istante ci sia anch'io. Ma non che stare arrivando, fra un anno passerà. Io mi sto preparando e questa è la novità. Sognarti, come non ti ho sognato mai. Incontro le strade il vento triste, perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, le lenzuola nel letto dove dormirai, la mucca di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Dolce terra mia, dove non sono stato mai. E la luna è una palla nel cielo, un biliardo. qualcuno che trova una moto si può andare in città. Sguardo per rubarlo, algo che a ballare sembra un cavallo. In un locale che è uno schifo, poca gente che lì guarda, c'è una checca che fa il tifo. Vai, dimmi tu dove sarà. Dov'è la strada per le stelle? Mentre parlano, si guardano, si scambiano la pelle, cominciano a volare con tre salti, sono fuori dal locale con un'aria da commedia americana. Sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana dall'altra parte della luna, e li guarda e anche si ride, ma veramente quasi paura. Passa un cane che sente qualcosa, li guarda mai e se ne va. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare, tenendosi per mano. La prima signora della musica italiana. La prima signora. Meno l'ombra della perduta non solo te. E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me. Altra gente mi darà nemmeno l'ombra della perduta felicità. E se domani sottolineo sì, te avrei perduto il mondo intero, non solo te. Stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie, è cresciuto troppo in fretta questo nostro amor. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io vedendo ti fossi certo che non soffri, ti rivedrei. Guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. Ma non so spiegarti che il nostro amore appena nato è già finito. Se dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendo ti fossi certo che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. Che il nostro amore appena nato è già finito. Thank you. cosa sei, cosa sei. Adesso ormai ci puoi provare, chiamami tormento, dai, già che ci sei. Questa sera raccontami un'altra, violine rose li posso sentire, quando la cosa mi va, se mi va, quando il momento è tutto si vedrà. Parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole. Fermare, chiamami passione, dai, hai visto mai? Caramente, non ne voglio più, più. La luna di grilli, normalmente mi tengono sveglio, mentre io voglio dormire. E sognare l'uomo che a volte c'è, te quando c'è, che parla a me, ma poi può piacere. Parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole. Questa la faremo cantare a Mina, Bellosso, un po' Paolazze, sono ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prenderà luna. Titarella di luna, titarella color latte, giocante sopra il tetto, sopra il letto come gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Bella di luna, titarella con un latte, che fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le belle, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Thank you. amato in questo mondo solo io. Io, invece io, sono stato troppo amato, ma noi due, amor mio, e siamo poco insieme, siamo un po' di più. Tu, forse tu, più qualcosa, e ti arriva. Amor mio, amor mio, per amico c'è rimasto solo io. Ah, lui lo sa, sorride, lui si guarda e sorride. Amor mio, basto io, grandi braccia, grandi mani hanno per te. Stretto insieme, freddo non avrai, tu non tremerai, non tremerai. Amor mio, basto io. Maestro Caruso. Io cammino di notte, io cammino svariando, e non tengo mai solo perché lo mando che è ancora te. Dire tutta la verità, che la pane con capire. E passa e sfascia sciotta sto balcone, ma tu si guagliona, rusce e fermana, si ancora così giovana, tu si guagliona, care mi sa capo, poi asciuga pallona, che vuole distirare, quanto non mi fa ridere, chi desidera di basare. Scuola della piccina, che si unisce a papà, che si accoma va a ferire. Devo allontanare da te per vederti tutta intera, devo far finta che non ci sei, per scoprire che sei vera. Questa sera la signora dell'albergo ha cucinato le patate come le fai tu, arrosto un po' croccanti fuori, morbide nel cuore, proprio come le fai te, proprio come te. Mangiandole mangiavo te come una comunione, e sono scappato via perché da troppo amore non so respirare. Amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore. Come me si svegliano alle tre e dicono che i giorni sono corti. Quelli come me si svegliano a metà, rimangono coi sogni mezzi aperti. Avrai ragione te a fare come fai, a stare con chi vince, cambiarti le camicie. Sta a vedere che sappiamo già com'è, siamo solo dopo morti. Tutti vogliono viaggiare in prima, lo stesso che c'ha tutto quel che vuoi. Tutti quanti con il drink in mano, e sotto come va, fuori come va, fuori come va. Come me si sbaffi che ce n'è, ma è come non venisse mai il momento. Con quei progetti lì e quei difetti lì che ci fanno stare più contenti. Avrai ragione te a fare come fai, a startene da furbo nel mondo dei più furbi. Basta vedere che sappiamo già com'è, non ci teniamo a togliere il disturbo. Tutti vogliono viaggiare in prima, lo stesso che c'ha tutto quel che vuoi. Tutti quanti con il quanti posso offrire, strino e sotto come va, fuori come va, fuori come va. Thank you. Stai bene, ricordo. sta bene. Notte altre sono sveglio, sempre tu il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio, più ti penso più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo. Adesso che ti voglio bene io ti perdo. Questa voglia, prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo e venire sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa. Thank you. ti lasciai un motivo né una colpa, fatto male per non farlo alla tua vita. Tu eri in piedi contro il cielo, io così, dolente mille mani, dato alzatevi. Saranno molti te che stirerà il tuo dolore, pensando che sia il mio, io e te, che facemmo invidia al mondo, avremmo vinto mai contro un miliardo di persone. È una storia va a puttane, sapessi andarci io. Era una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io di cassetti, di ricordi e di indirizzi che ho perduto, ho visto visi e voci di chiamato prima o poi andare via. Tante sere chiuse come chiudere l'ombrello, col viso sopra il petto a leggermi i dolori e i miei guai. Camminato quelle vecchie curve lo seguendo, il vento è dentro un senso di inutilità, è fragile e violento, mi son detto tu vedrai. Vedrai, vedrai. Strada facendo vedrai che non sei più da solo. Strada facendo troverai un gancio in mezzo al cielo e sentirai la strada far battere. Questa gente che c'è al mondo, io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai, corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità, e giovane invecchiato mi son detto tu vedrai. Vedrai, vedrai. Strada facendo vedrai che non sei più da solo. Strada facendo troverai che tu caccio un mezzo al cielo e sentirai la strada far battere. Ed io, da mare veniamo. occhio di cemento bruno, anche stelle sogna da alzare nelle stanze di Nettuno, turbini di sabbia tra le dune calde, sulle orbe perse da qualcuno. E lì il mare il sangue è amaro, rimarrò perché calmare il mare non si può, mi si amaro non laggiù. Carla di bambù, scelto lì. Gesuiti, euclidei, vestiti come dei ponzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia più cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia più cambiare idea sulle cose, sulla gente. Raccogliere ortiche, non sono morto i cori russi, la musica finta rock, la new wave italiana, il free match canzontese e anche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente cartoni animati. Cartoni animati. di mollica, senza fatica, dove vai? Sono burattino, non mi fermo mai, con le mie scarpe, super pan bagnato, il vestitino di carta colorato, farò i dispetti a chi sarà cattivo. Thank you. fuori chissà dove, giro nudo per la casa, dimmi tu se questa è vita, tu che esci con le amiche e dici, io che resto qua a pensare ore, se vuoi vero per davvero, o ti vedi con qualcuno, guardo un po' televisione, c'è il pollo dentro il frigo, faccio prova a immaginare le tue mosse e le tue parole. È che sono un po' geloso, scemo, ma ti amo per davvero, vero, sì, va bene autonomia, ma ricorda che si via. Dovrei un po' sfogare, è che sono assai nervoso, posso, posso, una sera tala, tala, quasi quasi cado in piedi, vado a casa di Maria, ho sentito l'ascensore, gira chiave con portone, faccio finta di dormire, tu invece vuoi parlare, sono stata a chiacchierare, ore, ogni tanto sai ci vuole, ci vuole. Tutte dei problemi, per fortuna il te amore, banane, tampone, chi c'era con te, io sono tuo amore, sei solo per me. Thank you. ancora barba e in compagnia, poi non l'ho più veduta, sono andata via solo per un minuto, ritorno per chiudere uno, mi verrai a cercare, si cerca il dolore. Thank you.

giro i suoi polmoni beccherà. Quando questa merda intorno sempre verde resterà, riconoscerai l'odore perché questa è la realtà. Quando la tua sveglia suona e tu ti chiederai che ore, che la vita è sempre forte, molto più che facile. Quando sposti appena il piede, il tuo tempo crescerà. Sopra il giorno di dolore, sopra il giorno di dolore che urla, thank you. Thank you. genere, forse ho capito, sono qui. Scusa, sai se provo a esistere, divento insopportabile. E scusa se ti amo, e se ci conosciamo, da due mesi un poco più. E scusa se non parlo piano, ma se non urlo muoio, e sai se ti amo. E scusami se sono, infatti chiedo perdono su quel che ho fatto, io però chiedo scusa, regalami un sorriso. il sogno di qualcun altro, in questa amicizia nuova pace si posa, perdono. Yeah. oramai ho capito chi sei, non ti importa niente. Tu dimentichi tutto senza alcun rispetto e neanche per noi. Chiedi amore così come chiedere di buttarsi nel cesso. Tanto tu non lo sai quello che vuoi. Ma dove vai? Ma dove vai? Tanto oramai sei via. Faccio così, passo di lì, ti prendo e ti porto via. Sei gelosa di te, ti guardi intorno se c'è una vestita uguale. Che sedurre per te è più importante che respirare. Starti vicino sì, a volte capita di sentirsi un po' in forse. Ma tu li baci tutti e lasci tutto com'è. Hey! Ma dove vai? Ma dove vai? Tanto oramai sei via. Faccio così, passo di lì, prendo e ti porto via. Ma dove vai? Ma dove vai? Tanto oramai sei via. Anzi, faccio così, quando passo di lì, ti prendo e ti porto via. Conosco oramai, ho capito chi sei, non ti importa niente. Tu te li baci tutti e lasci tutto con me. Ma dove vai? Ma dove vai? Tanto oramai sei mia. Che finalmente i ragazzi sono in giro. Venuto delle vostre Polaroid, niente santi e assassini, è comunque una cosa sola, non restate agli ospiti un po' scomodi. La radio sta dicendo che qualcuno non si fa beccare, sembra che in città ci sia qualcuno che non è finito mai in TV. Niente carne da partito, né indagine di mercato. Come state, ce lo dite, quando siete di fronte alla scritta sul muro. Sul muro. Parlate, i ragazzi sono i ragazzi, sono i ragazzi, sono in giro. I ragazzi sono i ragazzi, sono i ragazzi, sono in giro. I ragazzi sono i ragazzi, sono i ragazzi, sono in giro. una donna e una famiglia che mi tira fuori dai guai, ma tutto quel che voglio pensavo è solamente amore ed unità per noi che meritiamo un'altra vita giusta e libera, se vuoi, nata sotto il segno, nata sotto il segno. Sono solo stasera senza di te. certo da solo davanti al cielo, e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosco le tasche piene di sassi, sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola, e da piangere arriva subito, mi riconosco le scarpe piene di sassi, faccia piena di schiavi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano i fiori, sbocciano, danno tutto quel che fanno libertà, donano, non si interessano di ricompense tutto quello che verrà. Mormora, la gente mormora, fa la tacere praticando l'allegria. Giocano da degli uomini, sta soltanto un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi ha lasciato da solo davanti al cielo. Non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, quello pieno di stracci. Solo, solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola, e da piangere arriva subito, mi conosci, con le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sono nato nel 54, vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. Mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, la corda dissonante di un'orchestra di ubriachi, e giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura, per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura, puzza di pisce e segatura, questa è malattia mentale, non esiste cura. Ti regalo una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni consolare, e ogni rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Infatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stessi ad asciugare il sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la mia col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze e guardate tra me e voi chi è più pericoloso, dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ricagnando un angolo che fosse solo il nostro, ricordando i pochi stati in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle grigie stipate negli archivi, e ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone, nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare. sul letto, cara Margherita, sono vent'anni che ti aspetto. Ma chi siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce? Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare, ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare. Uso a fini didattici, le canzoni appartengono ai rispettivi proprietari dei diritti.